Nord Mixtape. Yeah, oh, ascolti assimila, non sono un tipo minima. Lo sfondo non è il cinema, vi sfondo come al cinema. In effetti speciali, senza effetti speciali. Siamo special guest su queste strumentali. Leali con la musica, rapper non musicisti. Stiamo sempre in alto per questo che ci hai già visti. Ci hai incontrati, mai scontati. Come gli strumenti in un live, mai scordati. Ci tieni a mente, mente sana e corpo in forma. E la mia gente ne sa perché si informa. Non parlatemi di rap che pian piano prende forma. Se è compatto quanto un corpo nell'acido che si sforma. C'è nuova riforma, infine poi chi vinse. Chiodo scaccia chiodo, tu passami le pinze. Le vostre facce tirate mo fanno le grinze. Pezzi tutti d'un pezzo ma rappati in insert. C'avete il fiato corto e puzza di cazzate. E io mi sono accorto che qua non ce la fate. Le vostre strofe non sono tagliate e ve le faccio a pezzi come quando le registrate. E Roma Nord Mixtape, ehi. Gira per la zona come un 546, ehi. E Roma Nord Mixtape, ehi. Gira per la zona come un 546, ehi. E Roma Nord Mixtape, ehi. Gira per la zona come un 546, ehi. E Roma Nord Mixtape, ehi. Gira per la zona come un 546. Rifletto in uno specchio che spacco in un interludio. Intesto le ambizioni di una vita e non mi illudo. L'ho titolo di studio, io stavo sempre in studio. Magari il prossimo disco lo intitolo di studio. In giro c'è ripudio, noi siamo cani sciolti. Disordiniamo i bordi, noi siamo i nuovi volti. Ci chiamano fratelli, accorti, figli della stessa rabbia che ringhiano a denti storti. Noi distorti, nei sobborghi. E l'essere street non è nel modo in cui ti porgi. Ti sporge, c'è un senso di vertigine. Del vostro fuoco ormai ne resta solo fuligine. Più vigile, meno traffico. Io salto di qualità, però da un attico. E in un attimo è pieno di parassiti. Non siamo mai stati uniti e non siamo nei Stati Uniti. E Roma Nord Mixtape, ehi. Gira per la zona come un 546, ehi. E Roma Nord Mixtape, ehi. Gira per la zona come un 546, ehi. E Roma Nord Mixtape, ehi. Gira per la zona come un 546, ehi. E Roma Nord Mixtape, ehi. Gira per la zona come un 546.